Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uno dei libri più belli del 2017. Si intitola L'Arminuta, l'ha scritto Donatella Di Pietrantonio, pubblicato da Einaudi. È il terzo romanzo della Di Pietrantonio, dopo Mia madre è un fiume e Bella mia, entrambi erano stati pubblicati da Elliot. L'Arminuta è un romanzo bello, doloroso, emozionante, poetico. È un romanzo che parla di maternità e di radici. La protagonista è una ragazzina di 13 anni che tutti chiamano l'Arminuta, ossia la ritornata, questo almeno in dialetto abruzzese. Siamo appunto in Abruzzo, metà degli anni 70. Questa ragazzina è stata cresciuta da una coppia di zii, perché i genitori biologici erano, diciamo, in difficoltà economiche. Quindi l'Arminuta cresce in una famiglia della media borghesia, dove è coccolata, amata. Improvvisamente però questa coppia la restituisce alla famiglia d'origine, quindi la riporta nel paesino dell'entroterra contadino. E l'Arminuta viene così catapultata in un contesto che non conosce e di cui non capisce neanche la lingua, perché tutti parlano dialetto e lei non sa parlare il dialetto. Insomma, un vero e proprio shock per la ragazzina. Tant'è vero che all'inizio, proprio l'incipit del romanzo, lei racconta in prima persona: a 13 anni non conoscevo più l'altra mia madre, riferendosi alla madre biologica. E poi ancora nel corso del romanzo questa bambina, questa ragazzina, chiaramente vuol tornare fortemente nella famiglia che l'ha cresciuta, perché lei è cresciuta con l'idea che quella sia la sua famiglia. E allora dice: io non sono un pacco, voi la dovete smettere di spostarmi di qua e di là, voglio incontrare mia madre, tu adesso mi dici dov'è e io ci vado da sola. Insomma, un romanzo, come avete potuto capire, veramente, veramente intenso. Ma sentiamo da Donatella Di Pietrantonio come è nata l'idea di questa trama proprio nella sua mente di scrittrice. Da echi di storie ascoltate quando ero bambina, ragazzina, e sentivo appunto raccontare di questi bambini dati, si diceva proprio così, quasi fossero dei pacchi. Quello che mi chiedevo è di chi questi bambini si sentissero figli, se dei genitori naturali o dei genitori adottivi. In qualche modo questo interrogativo ha continuato a lavorarmi dentro, finché ho deciso di scrivere questa storia, dove però la particolarità e che questa bambina data ancora lattante viene poi restituita all'età di 13 anni alla famiglia biologica. Infatti il tuo romanzo inizia proprio con questa, diciamo, restituzione, no? Questa bambina si trova improvvisamente strappata a quello che pensa essere il suo contesto familiare, comunque le persone con cui è cresciuta, e torna alla sua famiglia biologica. Ci sono due contesti anche sociali molto diversi, perché i genitori che l'hanno cresciuta fanno parte, diciamo, della media borghesia, mentre la sua famiglia biologica è una famiglia contadina, povera, dell'entroterra abruzzese. Come vive questo stacco dal punto di vista proprio emotivo? L'Arminuta si trova proprio precipitata da una dimensione piccolo borghese, da una città costiera con le sue aperture, i suoi traffici, le sue opportunità, si trova precipitata in un entroterra chiuso, arretrato, e c'è per lei anche uno shock linguistico. Lei torna in questo paese, a questa famiglia, torna come parlante l'italiano e ritrova invece questa lingua dialettale dai suoni aspri, duri, come i contenuti che veicola. Non è soltanto una questione formale. Quindi lei subisce anche uno shock linguistico, viene a trovarsi in questa famiglia, in questo modo, in questo paese, di cui non comprende neanche la lingua. C'è questa difficoltà di comunicazione a tanti livelli, soprattutto sul piano affettivo. Non viene accolta dai suoi genitori se non con una semplice constatazione: ah, sei arrivata. Quindi per lei, da un punto di vista emotivo, è una specie di discesa agli inferi. Che accoglienza da parte degli altri fratelli, perché vediamo che c'è una sorella, Adriana, con la quale poi si instaura un bellissimo rapporto, ma insomma è anche uno dei fratelli, mentre Gli altri sembrano essere un po' ostili, ma soprattutto lei come li vede? Gli altri fratelli lei li vede un po' come dei selvaggi, quali in realtà sono, ma nella numerosità di questa famiglia scattano comunque dei legami empatici molto forti e immediati con la sorella Adriana, appunto, e con questo fratello Vincenzo, con cui si stabilisce anche un'attrazione erotica, in quanto loro non hanno mai vissuto nel quotidiano la fratellanza. Sono due ragazzi, due sconosciuti, e per quanto siano stati informati di questo loro legame di sangue, loro, non avendolo mai vissuto, non lo sentono, mentre sentono questa attrazione reciproca che io in qualche modo gli ho lasciato vivere, e non la ritengo assolutamente incestuosa, mi sembra innocente questo loro cercarsi. Nel momento in cui lei arriva nella casa appunto dei genitori biologici, da lettrice sono stata come investita dagli odori, perché ci sono degli odori che tu descrivi molto, molto precisamente. È come se questa bambina passasse da un contesto, diciamo, di borotalco a un contesto di odori anche pesanti. Perché hai voluto sottolineare anche questo aspetto proprio olfattivo? Perché secondo me rappresenta bene questo passaggio dell'arminuta da un polo all'altro. Lei passa da questo ambiente ovattato, protettivo, in cui è vissuta, in cui la madre adottiva neanche la mandava alle giostre per paura che si facesse male. Arriva invece in paese, in questa famiglia, e improvvisamente le si apre la vita vera. Le si apre un mondo da percepire proprio con i sensi, dove tutto le arriva addosso in maniera molto, molto diretta, molto intensa. Quindi sono questi odori, ma sono anche i sapori di questi cibi poveri, arrangiati al momento, sono anche le urla, le liti, la violenza tra fratelli. È veramente un calarsi nella vita vera, dove però ci sono non necessariamente solo aspetti traumatici, ma c'è anche ad esempio la gioia di questo primo giro sulla giostra, la felicità del volo. Naturalmente in questo romanzo uno dei temi fondamentali è quello della maternità, del rapporto madre-figlia, della figlia che si chiede perché mia madre, quella che lei pensa sia sua madre, che ha pensato fosse sua madre, quindi la sua madre adottiva, l'ha improvvisamente restituita, abbandonata. C'è una parte del romanzo dove sostanzialmente l'arminuta, che è poi la voce narrante a posteriori di tutte queste vicende, dice, insomma, non so neanche chi sia la mia vera madre, insomma, non so a chi appartengo. Quanto conta per te il tema della maternità e il tema delle radici, proprio dell'origine, da dove veniamo, insomma? È la mia urgenza narrativa che declino in modi diversi da un romanzo all'altro. In questo caso l'impossibilità, almeno momentanea, dell'arminuta sentirsi addosso una sua propria identità deriva proprio da questo vissuto terribile di sentirsi orfana, come lei dice, di due madri viventi. Quindi è questa impossibilità dell'appartenenza e della provenienza che le crea un vuoto, un abisso, dove l'identità non si riesce a rintracciare, come ha sintetizzato molto efficacemente Michela Murgia in una recensione dell'arminuta. Il problema fondamentale è che non puoi dire chi sei se prima non hai capito di chi sei. Venendo invece proprio alla lingua del romanzo, questa è una storia sicuramente drammatica, molto dolorosa. Eppure hai utilizzato una lingua asciutta, con termini precisi, insomma non si cede al melodramma, ecco, è sempre una lingua molto controllata. Come hai fatto, ecco, anche a controllare le tue emozioni nella scrittura di questa storia? Il lavoro sulla lingua, che come ben dici corrisponde anche a un lavoro dello scrittore sulle sue emozioni e sui suoi vissuti durante la scrittura è stato abbastanza impegnativo, nel senso che questa volta, più che le altre, è stato soprattutto un lavoro in sottrazione, quindi un'asciugatura continua, uno scolpire le frasi fino a lasciare veramente solo l'essenziale, perché ritenevo che solo in questo modo, investendo molto sulla precisione delle singole parole, piuttosto che sulla struttura dei periodi, io potessi arrivare al lettore ed emozionarlo, coinvolgerlo. Uno degli aspetti molto emozionanti di questo romanzo è il legame fra Larminuta e Adriana, sua sorella di sangue, perché è un legame che cresce lentamente. All'inizio c'è diffidenza, poi c'è curiosità da parte di Adriana e poi c'è vicinanza e proprio fratellanza. Adriana è l'unico, diciamo, oggetto d'amore per Larminuta in questa famiglia, è l'unica persona alla quale lei fa affidamento, a parte Vincenzo, che però poi a un certo punto del romanzo non ci sarà più. In un certo senso sì, Larminuta lo dichiara esplicitamente a un certo punto, dice che Adriana è tutto quello che ha, perché qui c'è il problema della mancanza della funzione genitoriale, quindi quello che non discende dalla generazione maggiore, da quello dei genitori, come sarebbe naturale che fosse. Queste due bambine, queste due ragazzine cercano in qualche modo, perché non è mai possibile riuscirci del tutto, di compensarlo sul piano della relazione tra pari, quindi su un piano orizzontale. Loro costruiscono nella sorellanza questo legame fortissimo che è di complicità, di amore, di mutuo sostegno, che si rivelerà salvifico per entrambe. A proposito di rapporto salvifico, adesso ti dico una cosa, insomma, poco letteraria, nel senso che non è da critica assolutamente letteraria, ma io quando ho letto questo libro sono stati dei momenti in cui avrei voluto prendere Larminuta dalle pagine del libro e abbracciarla, consolarla, darle conforto proprio umano, emotivo, affettivo. Tu che rapporto hai avuto con questo personaggio, che poi è frutto chiaramente della tua fantasia, ti sarà fatta ispirare da storie vere, però alla fine è qualcosa che hai creato tu? Beh, certo, nella minuta c'è ovviamente molto di me e le emozioni che ho provato sono simili a quelle che hai appena descritto. C'è, si crea, credo, per ogni scrittore un'empatia, una immedesimazione fortissima con i personaggi, soprattutto con il protagonista, con la protagonista in questo caso. E poi c'è anche da dire che usando l'io narrante l'identificazione è ancora più forte, quindi sono stata e per molti versi lo sono ancora Larminuta, sono io Larminuta, anche se non è ovviamente la storia della mia vita. E questa era Donatella Di Pietrantonio, autrice di Larminuta, pubblicato da Einaudi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Parliamo ora di un fenomeno editoriale degli ultimi tempi, la saga dei Medici, scritta dall'italiano Matteo Strucule, pubblicata da Newton Compton Editori. Insomma, è una saga sulla famiglia più potente del Rinascimento italiano. C'era stata in proposito anche una fiction Rai, appunto, sui Medici, che era andata in onda nell'autunno del 2016 e che poi era stata diffusa anche da Netflix in altri paesi del mondo. E per quanto riguarda invece i libri, allora si tratta di tre volumi che si intitolano tutti appunto I Medici, con sottotitolo Una dinastia al potere, che è su Cosimo il Vecchio, Un uomo al potere, ossia su Lorenzo il Magnifico, e Una regina al potere, su Caterina de' Medici.